Questo è il terzo appuntamento che è promosso dal Messina Social Forum, che è una realtà composita e che, a differenza anche delle vicissitudini degli altri social forum, è una realtà che ancora continua a tenere e continua ad essere, diciamo, un luogo di resistenza. Quest'anno al terzo appuntamento contro la costruzione del ponte si vedrà anche non soltanto l'opposizione alla costruzione della grande opera, ma anche si tenterà di coniugare l'opposizione alla grande opera e quindi a tutto quello che viene fuori dall'idea neoliberista di sfruttamento dei territori, anche il discorso di cercare di aprire il Mediterraneo a creare nel Mediterraneo uno spazio di dialogo, e ci saranno seminari per esempio anche che parleranno di questi argomenti. E a tutt'oggi abbiamo più di 40 organizzazioni che aderiscono al meeting, le posso citare qualcuno, ci sono i comitati di Scanzano Ionico, l'Abruzzo Social Forum, il comitato Fermiamo la Guerra, il comitato per la difesa del Golfo di Castellammare del Golfo, perché l'idea è quella di unire sempre di più le forze per fare anche il punto su cosa succede e cosa si muove sul territorio nel meridione. Infatti posso un po' esporre il programma, il meeting inizierà il 17 di luglio e si concluderà il 25. Sarà allestito nello stesso luogo dell'anno scorso, che è un vecchio cantiere industriale dismesso, che è proprio accanto il pilone, anch'esso dismesso, ormai un rudere di archeologia industriale di Capopeloro, ed è quindi nel punto più vicino alla Calabria, quindi anche uno dei punti più belli dello stretto di Messina, e inizierà appunto sabato 17, in cui ci sarà la festa della musica, che è legata anche alla campagna che l'Arci fa contro il discorso del copyright. E nelle varie giornate che si susseguiranno ci saranno delle iniziative auto-organizzate dalle singole organizzazioni che partecipano al meeting, perché l'idea appunto è quella che il meeting sia uno spazio il più possibile condiviso. Noi possiamo immaginare che il ponte, dal punto di vista anche tecnico, ormai è stato spiegato anche negli incontri degli altri anni, dal punto di vista tecnico non è possibile costruirlo, ma appunto il tentativo con la nomina del general contractor è quella di aprire i cantieri. Esistono anche appunto degli studi che dimostrano come l'apertura dei cantieri sia appunto una vicenda che interessa la mafia e le ditte, diciamo, industriali e società industriali legate alla mafia, soprattutto nel campo delle piccole società che si occupano appunto del movimento terra. E questi migliaia e questo movimento terra creerà degli sconquassi appunto sul territorio, e andrà ad incidere anche nella provincia di Messina, perché non soltanto sarà coinvolto il comune di Milazzo, ma anche molti piccoli comuni che già adesso hanno dei problemi per quanto riguarda per esempio le discariche, per una gestione appunto clientelare che esiste anche qui nella provincia di Messina. Un altro invece dei punti fondamentali di questo meeting è che per la prima volta il meeting ha il patrocinio dell'amministrazione comunale. Non è un patrocinio politico, perché il comune di Messina è commissariato, quindi c'è un commissario del governo. Scrivere nel manifesto il patrocinio del comune di Messina è anche un modo per cercare di coinvolgere quella parte di cittadini che fino adesso non si è avvicinata a questa tematica.